conversazioni intorno all'attualità della vita nei luoghi del festival. Bentornate e bentornati a tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici su Radio Live con me, che sarei Silvio Impegnoso, e anche con Giovanni Passarillo. Eccoci, siamo appena arrivati a Cirigliano per la prima volta nella nostra vita. Per entrambi, possiamo dire, e per strada, venendo qui da Campomaggiore, che è il paese dove alloggiamo, abbiamo fatto una serie di incontri ravvicinati del terzo tipo. Innanzitutto due istrici. Una mucca con delle corna molto grosse, che quindi era in aria di bufalo anche un po'. Però che hai visto soltanto che io. Ho visto solo io, quindi non è confermata l'esistenza, esatto. Ma io sono sicuro. E anche un cinghiale. È una volpe. Una volpe. La mucca podolica. Una mucca podolica che ora ci spiegheranno che cos'è. Esatto. Ma qui invece abbiamo appena incontrato il comitato di cura di Cirigliano, che è qui con noi in questo momento. Con noi sono presenti il sindaco di Cirigliano, Franco Galluzzi, che vi dà il benvenuto. E a cui noi salutiamo e che ringraziamo, e tutti gli altri che ora si presenteranno, se vogliono. Insomma, Tonino, il nome me lo ricordo. Sì, Tonino Garambone, e sono il presidente della Proloco di questo piccolo comune, che starò a vostra disposizione in questi 2-3 giorni che resterete qua. Grazie. Io sono Antonella Iallorenzi, e come compagnia Petra iniziamo oggi questa residenza. Sono felicissima, mi hanno addirittura oggi insignita di questo ruolo di nuova cittadina di Cirigliano, perché abiteremo in questo paese, ne siamo felicissimi. Grazie. Rocco De Canio, un amministratore qui di Cirigliano. Grazie. Sono Enzo e sono volontariato della Protezione Civile. Grazie mille. Quindi, insomma, non solo comitato di cura, ma già alcuni degli artisti che sono arrivati in residenza per sviluppare i loro lavori nel corso di questi giorni. Appunto, abbiamo qui un esponente di Compagnia Petra, ma noi tutti ci stiamo chiedendo, così come i nostri radioascoltatori, che cos'è esattamente un comitato di cura e che cosa fa? Va bene, il comitato di cura è il gruppo di lavoro, il gruppo iniziale, che già con Matera 2019, perché è il secondo evento che noi facciamo con Matera 2019, si è costituito per supporto poi ai tecnici di Matera 2019 e in questo momento alla compagnia che è qui rappresentata da Antonella. È un gruppo di lavoro, un gruppo che si è messo a disposizione, sono tutti volontari come il presidente della Proloco, la Protezione Civile, altri ragazzi e altre ragazze che in questo momento non ci sono, per dare il loro supporto, per far conoscere il nostro territorio agli artisti che ospiteremo in questi giorni. E qui a Cirigliano, no, visto che noi non ne sappiamo niente, insomma, un po' che aria tira, insomma, che come si campa, che si fa? Quali sono gli eventi che possono caratterizzare questo piccolo paesino? Certo, intanto vi dico che è il borgo più piccolo dell'intera provincia di Matera. È una realtà di circa 400 abitanti, quindi vi parlo di numeri molto, molto piccoli. Però anche se siamo piccoli abbiamo una serie di attrattori, sia storici che naturalistici. Qui abbiamo un castello che risale al 1248. Castello Rosso? Il castello che avete visto illuminato. Sì. C'è una torre, a cui all'interno vi è una torre a pianta ellittica, unica in Italia, che risale all'epoca degli Angioini. Storicamente, quindi, abbiamo delle origini molto, molto antiche. Le prime notizie di Cirigliano le ritroviamo addirittura nel 1050 in una bolla della diocesi di Tricarico. Ma l'importanza di Cirigliano è che era una posta romana, era una posta di intervallo intermedio tra un percorso dalla fascia ionica e Potenza. Ecco l'importanza del Cirigliano, la vecchia panetteria in cui era un punto di scalo, tra virgolette, in cui i commercianti all'epoca nel tragitto dalla fascia ionica a Potenza si fermavano per una tappa intermedia di questo percorso. Ma abbiamo altre attrazioni, non soltanto il nostro castello e la nostra. Abbiamo il carnevale, noi facciamo parte della rete dei carnevali e la nostra peculiarità non è la singola maschera, ma bensì il nostro carnevale è composto da tanti monologhi, la rappresentazione dei mesi e delle stagioni, ossia ognuno di noi recita un monologo riferito al mese. E si parla della civiltà contadina, in effetti è un paese che vive di agricoltura prevalentemente, anzi soprattutto, perché la nostra realtà è agricola di un'area interna. Ma quindi Franco, sindaco di Cirigliano, abbiamo detto Franco, di cui mi sono già dimenticato il cognome, ma è colpa mia. Galluzzi. Franco Galluzzi. Franco Galluzzi. Ti volevamo chiedere, ma questo modo di festeggiare il carnevale, diciamo, con questi rappresentazione, diciamo, allegorica, mi sembra, certo, di capire, certo, in cui ognuno, certo, recita un monologo, una parte, certo, di un mese, di una stagione, della... è una cosa tipica di tutta questa zona o no, solo di no, Cirigliano? No, è solo di Cirigliano. Mentre andiamo ad Aliano e troviamo le maschere cornute di Aliano, andiamo a Satriano e abbiamo il personaggio di Satriano, esatto, l'uomo andiamo albero a Lavello e ci sono i domini. Il nostro carnevale invece sono tante maschere, guardate. In ogni mese c'è una rappresentazione, c'è un monologo che ognuno di noi poi recita. Ok, quindi, chiaramente per i nostri radioascoltatori, certo, che non possono vederci, vai Giovanni, però adesso di farli cosa ci abbiamo? Certo. Dicembre. Abbiamo qui un calendario dove ci sono appunto le fotografie che ci sta e spiegando. C'è il monologo di dicembre, quello che le io fotografie recito. Che riprendono questo momento, questo evento teatrale del comune di Cirigliano. E in alto al mese di dicembre 2021 appunto c'è il testo che viene letto, recitato, esatto, e recitato. Viene recitato e viene recitato di uno di noi, insomma, ognuno, uh-huh, di noi recita. Vedi, io sono dicembre con i giorni corti perché c'è poca luce, ok? Giorni corti è riferito al momento, vedi, la scolatura di tutti i mesi, l'ultimo mese dell'anno. Vabbè, poi c'è... Sì, come si pronuncia? Sono il dialettale, poi. Sì, ci sono. Managere andreta una botte, nel senso, faccio il giro da una botte, intorno a una botte, perché si fa il vino in questo mese, si stappa il vino del 2021, oppure dell'anno in corso, ok. E voglio una moglie, voglie, nannese per sei mesi, voglio grano per sei mesi, mm-hmm, insomma. Perché all'epoca, quando si raccoglieva, si metteva poi a deposito che veniva utilizzato per tutto l'anno, almeno per altri sei mesi, perché poi a giugno, a luglio c'è di nuovo la mietitura. Vabbè, questo per l'osso del porco, perché questo è un periodo in cui si iniziano a ammazzare i maiali. Qui, insomma, non c'erano le macellerie all'epoca. Ognuno di noi si coltivava i propri animali domestici e così via. Vabbè, che ho ucciso. Tengo una botte di vino verdesco, il vino fresco, e tengo quindi buona moglie e letto fresco, nel senso che ho sia la moglie e sia il vino, che di solito si ubriacava e quindi e poi si inizia a ballare. Musica. Diciamo che aveva tutto ciò che, certo, si possa desiderare. Certo, e in effetti se ci facciamo caso, parla del periodo, uh-huh, agricolo, del periodo, insomma, del periodo, di quello che si fa nel mese di dicembre, ok? E questo quindi, mentre negli altri paesi no, ognuno ha una maschera... Certo, vi ho fatto l'esempio di Lavello, che ci sono i domini. C'è la mucca e il toro. Esatto. Mentre i nostri sono monologhi. Se voi andate... Sono sette carnevali in Basilicata che si sono riuniti, sono i sette carnevali antropologici della Basilicata. Non sono i carnevali quello con la cartapeste, con i carri, eccetera, ma sono dei carnevali antropologici e storici, e questi sette sono riconosciuti sia dalla regione Basilicata, anzi Cirigliano nel 94 ci fu chiesta anche di fare la nostra rappresentazione dei mesi dal regista De Simone a Venezia, e quindi siamo andati da Cirigliano, nonostante questo piccolo paese, abbiamo riempito un pullman di 50 figuranti per andare a fare il nostro carnevale a Venezia, e quindi... Poi la maggior parte dei monologhi sono in dialetto maccheronico, perché all'epoca il feudo dava un giorno solo alla plebe di esprimersi, allora, e dava quel giorno per fare della satira su di loro. Ecco perché loro tentavano di farlo in italiano, ma era un italiano maccheronico. Ecco perché quando si recita alcune cose sono in italiano e alcune cose sono in dialetto o italiano maccheronico. Ecco. Ed era l'unica volta che il feudo dava l'opportunità al popolo di fare satira su di loro. Ecco perché il nostro carnevale si recitava in tutto il borgo, non si recita solo su un teatro, si girava nel borgo, ogni piazzetta si recitava questo carnevale. E poi si faceva il carnevale, la processione del carnevale morte, col funerale, e tutte le quattro stagioni. Era una rappresentazione molto bella, ecco perché ci chiesero di andarla a fare a Venezia. Ma la peculiarità è che noi recitiamo i 12 mesi, le quattro stagioni, c'è Capodanno, quindi ci sono delle figure ben distinte e ognuno di noi ha la sua recita. E negli anni poi si è tramandata da papà e figlio e così via. In effetti ci sono delle famiglie che vogliono recitare soltanto gennaio, ci sono delle famiglie che vogliono recitare soltanto ad aprile, perché poi è diventato proprio un fatto quasi personale, tra virgolette. E lei recita? Io recito. E che mese fa? Io faccio gennaio, febbraio, marzo, faccio tutto. Ok, non è fissato su uno. No, quindi, esatto. Insomma, okay. Un semplice con la popolazione che è venuta meno, molti di noi si devono adattare a fare un po' di tutto. Si fanno i doppi ruoli, insomma, un po' come in teatro quando ci sono meno soldi. Certe volte facciamo anche doppi. Fanno la stessa parte, certo, insomma. Certo. Tante volte un anno si fa un mese, esatto. L'altro anno si fa l'altro, però in genere quando ma si, rispetto si al fa passato, un po' da tappa questo evento teatrale è cambiato, ci sono stati dei cambiamenti? No, c'è stato nessuno cambiamento. Quindi è rimasto... Anzi, c'è un cambiamento che lo proviamo a fare anche d'estate. Okay. Più di qualche volta l'abbiamo provato a fare d'estate per i nostri emigranti, per i nostri concittadini che, ahimè, non hanno poi la possibilità a febbraio di scendere a Cirigliano. Certo. Perché, come vi ho detto, ci sono dei personaggi ancorati a quel mese addirittura, soprattutto chi è più grande di noi, era proprio ancorato al mese di febbraio, cioè voleva recitare soltanto febbraio. E per far sì che queste persone in questo periodo gli viene difficile scendere a Cirigliano, oppure gli emigranti, oppure i turisti, lo stiamo proponendo anche d'estate per farlo conoscere a tutto il territorio. Beh, allora se passiamo d'estate da queste parti, veniamo a fare un mese, Giovanni, certo. Dai, così se ce lo fanno perché fare. Abbiamo bisogno di qualcuno bisogno. Che faccia i mesi, perché siamo diventati un paese così piccolo, purtroppo, come il sindaco ha detto, che tu scegliere 50 volontari in un paese di 10.000 abitanti fai subito, ma riuscire a trovare 30-40 persone in un paesino di 400 abitanti, di cui l'80% è gente oltre i 60 anni, oltre gli 80, e quindi ci manca proprio il materiale umano per farlo. Noi abbiamo questa la difficoltà che abbiamo di fronte. Molti dicono, ma prendetela da altri paesi. Ma il problema è che gli altri poi non recitano come noi, perché... non mettono la cadenza nostra, come ti devo dire, ecco. Sì, ci sono termini dialettali proprio di Cirigliano, proprio, e quindi non possono recitare altri di Gorgoglione o di Stigliano, perché non riescono poi, la pronuncia è diversa, quindi alla fine non si riesce. Tra noi e i paesi limitrofi c'è tanta differenza nel dialetto, ma proprio tantissima, proprio nei termini e nei modi. Quindi gli viene difficile a uno di Stigliano, uno di Aliano, dire, anche se sono poche parole in dialetto, però è difficile. È difficile per noi che non lo parliamo più come una volta, perché il nostro dialetto non è più quello di 50 anni fa. Molti termini, tra virgolette, purtroppo li stiamo perdendo e stiamo cercando anche di recuperare. Quali sono stiamo cercando li abbiamo anche di un po' italianizzati. Ormai in certo non parliamo senso. Più il dialetto. Certo, ma questo è alla fine un po' dappertutto. Però stiamo facendo questa ricerca. Più una calata, una musicalità, ma i termini si... Si perdono anche dalle mie parti, perché io sono umbro, sono di Foligno. C'è un tipo che sta facendo un dizionario per ritrovare un dizionario presente del Folignate con tutti i termini, è andato a trovare proprio tutti i contadini. Ma qui in Basilicata è stato fatto all'università, da Basilicata, dalla dottoressa Lapuente, ha fatto un dizionario e una ricerca di tutti i tipi di dialetto, e mettendo una tecnica sua loro, con degli accenti gravi, accenti acuti, così, che uno che l'ha studiato quella cosa la riesce a leggere in dialetto quasi come noi. Ma infatti gli altri paesi qui vicino, tipo Agliano, Stigliano, Campo Maggiore, quelli che avete nominato, ce l'hanno anche loro un loro carnevale? Il carnevale gli altri non c'è. Però non sono carnevali più recenti. Sono recenti e sono diversi. Per esempio, Stigliano c'è un carnevale fatto di carri di allegorici che è nato negli anni 80, 90. E Aliano, Don Pierino si è inventato la maschera cornuta, che poi lui l'ha associata a Carlo Levi, quando c'è stato Carlo Levi. Satriano c'è il Romito, quella della, della foresta, la foresta che, la foresta che cammina. E invece Accettura? Accettura no, non c'è un carnevale per... allora nei dintorni di qua intorno l'unico che siamo nella rete se Cirigliano e Aliano è San Mauro, però San Mauro non c'è, non c'è il carnevale, stanno nella rete con, con il campanaccio, che non è il carnevale, il campanaccio era una cosa che avveniva quando iniziava il carnevale il 16 gennaio, il 16 gennaio, però non era il carnevale, loro girano solo con le campane e basta. No, nella zona ci siamo solo noi. Mi dispiace per gli altri, ma ci siamo solo noi. E ultimamente poi cosa abbiamo scoperto? Che il fondatore dell'Alfa Romeo, io vi parlo di Alfa Romeo, originario di Cirigliano, è nato nel rione Capo La Torre, il rione dove abita Tonino, dove io ho abitato da bambino. Nicola Romeo, originario di Cirigliano. Insomma, diteglielo, magari vi omaggia con qualche macchina. Quest'estate abbiamo presentato un libro che parla dei Romeo. Ma vi dico di più, io sono in contatto con gli Agnelli, mo, sperando se queste difficoltà di questi giorni di poterli incontrare. E comunque questa cosa della foresta che cammina, no, richiama alla mente un sacco di suggestioni, cioè Macbeth, per esempio, oddio, sì, non si dice porta sfiga, però ormai l'abbiamo detto, ma anche il Signore degli Anelli, poi, tutto sommato, oltre la foresta che cammina è a Satriano, credo, sì, altre sì, cose. Sì. Invece poi c'è a Teana c'è... L'orso di Teana. L'orso di Teana. Siamo sette comuni, otto comuni. Sono otto carnevali, sette sono rappresentati dalle Proloco e quello di Satriano mi sembra rappresentato dall'associazione. Sì, al parco. Associazione al parco. La foresta che cammina è un carnevale che è stato ripreso da questa associazione, ripartendo da questa figura antropologica del Rumita, che è un eremita che viveva isolato e che scendeva per il carnevale vestito quindi solo di foglie di edera e che bussava alle porte con un fruscio che era un pungitopo, con questo chiedeva l'elemosina. Da questa tradizione questa associazione ha rianimato questa festa, questo carnevale, e adesso ci sono 131 uomini albero, tutte persone che possono con un laboratorio di autocostruzione di questa struttura di ferro su cui poi è attorcigliata l'edera, possono partire da questo piccolo boschetto e fare il percorso. 131, tanti quanti comuni della Basilicata. Wow, forse sarebbe bello inventarsene un, cioè magari esportarla questa cosa degli uomini albero, perché anche noi ci abbiamo un sacco di foreste, si potrebbe voi provare a vedere se camminano campani. Anche le nostre, non lo so. Voi a Napoli ne avete un po' meno. Molto meno. Potreste far camminare qualcos'altro. Sì. No, Avellino ha molto anche boschi, foreste. Beneventano, ma tipo il Casertano. Noi abbiamo la nostra corregionale qua che sta dalle vostre parti, Eliane Petrizzi. Ah. E sta dalle parti di Avellino, se non sbaglio. Avellino. Eh? Benevento, Avellino, provincia di Avellino. Beh, io ringrazierei a questo punto il sindaco e tutto il comitato di cura e Antonella di Compagnia Petra, con cui comunque ci rivedremo nei prossimi giorni per fare una chiacchierata bella approfondita anche sul lavoro e su come sta procedendo anche proprio nel contatto con questo luogo. Penso che anche ci rivedremo con il comitato e con il sindaco nei prossimi giorni, perché anche per testare appunto come lo stato di perché è importante sapere come sta andando e quali sono le vostre esperienze, e quindi ci rivedremo molto presto. Grazie per l'accoglienza. Grazie a voi. E noi poi vi daremo altre notizie ancora, sia di Cirigliano, sia culturalmente, sia turisticamente. Quindi. Poi in estate ci possiamo In estate ci proponiamo, se passiamo da queste parti, nel caso. Facciamo un corso di formazione per recitare per bene il testo. Cirigliano fino a 1200 metri di altezza, di altitudine, qua dove lì c'è un villaggio turistico, sarà verde. A Cirigliano ci sta una piscina, c'è un albergo, nonostante così piccolo, ci sono due ristoranti, degli attrattori pure. Ci sono degli attrattori, adesso stanno facendo un parco avventura. Noi l'abbiamo visto vicino agli Istrici mentre arrivavamo. Sì. Ma allora quel parco avventura là, prima stava nel bosco di Cirigliano, poi se l'hanno portato là, noi l'abbiamo messo quello. Quindi c'è un furto di parco avventura. No. lo stiamo Gianno. Realizzando, la prossima volta vi portiamo. Ne stiamo realizzando uno ancora più bello e più completo. Infrastrutture, allora molto più bello. Non andiamo in competizione. Allora ci contiamo. Assolutamente. A presto allora. Certo, okay. A presto. Conversazioni intorno all'attualità della vita nei luoghi del festival.